sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Cenno d'intesa con i suoi collaboratori, si comincia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao a tutti, Giorgio Druga, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Daniele Bonamici in redazione. Siete tutti convocati come ogni giorno all'800240024. Questo è il vostro numero verde per intervenire. Volevo partire subito dal gruppo Vacanze Italia con le nostre che ci portano a spasso in giro per l'Europa League, però sono stato rapito dall'ultimo show del Viperetta alias Ferrero, presidente della Sampdoria, che è stato poco fa ospite negli studi di Sky TG24, di Sky Sport 24. E guardate, ve ne posso far sentire tante, ma voglio partire da questa. Su Eto'o. Vado a Londra per parlare di Muriel. Io, l'avvocato Romei e Osti, Carlo Osti, che andiamo lì, parliamo di Muriel, parlo con il presidente Pozzo, BDB, papà, poi dice arriva, prendiamo lo stesso appuntamento all'albergo a Vittoria 7. E mentre che stiamo lì a aspettare, aspetta, io mi ero stancato, esco fuori dall'albergo e dico Antonio Romei, che è il mio braccio destro, è un avvocato, e dico Antonio, è arrivato tu, perché vedo un signore di colore con la maglietta tutto così, che scarpa al ginnasio, vado lì e lo abbraccio, era un cameriere d'albergo. Ciao Pierluigi Pardo, come va? La sapevi questa? Quella del abbracciato, pensavo fosse tu, era cameriere d'albergo. Il Viperetta, l'ha no, appena detto. Era lui? Sì. Ferrero, con Ferrero a Sky Sport 24. C'è stato Aurora, sono, ho detto vabbè, usiamo domani, dobbiamo parlare di Europa League, però questa è troppo bella, te la volevo far sentire. Ti voglio far sentire un'altra cosa invece, 1999. No? Sì. Britney Spears e compagnia, cantante. 1999, usciva il primo Matrix, Michael Jordan si ritirava dal basket, l'Italia del basket e quella del volley in contemporanea stereo diventavano campioni d'Europa, c'era il primo gol di Cassano in Serie A, l'anno dello scudetto, sì, del Milan di Zaccheroni. Ciampi presidente della Repubblica, e il 12 maggio Parma batte Marsiglia 3-0 allo stadio Luzhniki di Mosca, ultima volta delle squadre italiane. Ci riproviamo, eh? E nessuno quel giorno avrebbe pensato che per 16 anni non avremmo vinto la Coppa UEFA. C'è anche da dire che qualcos'altro abbiamo vinto quegli anni dopo, cioè, sì. Sinceramente adesso non è che dobbiamo fare improvvisamente, io sono forse il più grande fan al mondo dell'Europa League, però c'è stato anche sicuramente un momento in cui il nostro calcio si poteva permettere altro, ha vinto altro, quindi non è che sono stati 16 anni di sofferenza. No, chiaro. È stata la Coppa dei qualche Coppa dei Campioni è arrivata a Manchester, è stata l'apoteosi nel calcio italiano, da Atene, da Madrid, insomma, quindi di cose ne sono successe, però sicuramente la Coppa ha cambiato format, è diventata in un primo momento irraggiungibile perché sottovalutata da noi, poi c'è stato un momento in cui siamo resi conto che forse anche provando a giocarla non riuscivamo a vincerla. Quest'anno ci stiamo riprovando, io sono abbastanza ottimista sul fatto che il calcio italiano stia dando dei segnali di crescita, però è bello cominciare adesso, perché con tutto il rispetto per i vari Helsinki, Bruges, che tra l'altro ha passato il turno, o Slovan Bratislava, o Karabakh, che abbiamo affrontato fino adesso, o Pauk di Salonicco, adesso comincia, tra l'altro comincia per me una partita quasi irripetibile, nel senso che se guardiamo la qualità media delle 32 squadre, anche comparata agli anni scorsi, è veramente secondo me la più bella Europa League di sempre. Sì, quindi è più affascinante, ma è anche più difficile. E noi ci presentiamo con record, 5 italiane nei sedicesimi, dicevo prima, gruppo Vacanze Italia, le nostre ci portano in Scozia, in Turchia, in Olanda, Paesi Baschi, Inghilterra. A proposito, hai fatto l'Interrail tu? Io ne ho fatti 4 Interrail. Ne ho fatti 4. Quindi sei vaccinato. Sono proprio veramente, sono una specie di testimonial dell'europeismo militante. Però quindi è bellissimo, viaggiare per l'Europa è favoloso. E poi ecco, magari se ci si comporta bene può essere simpatico, se si fa come quelli del Feyenoord ieri sera, credo che sia c'è grande preoccupazione. Grande preoccupazione a Roma, ricordiamo la Roma inizia 19 la partita con quella del Torino. Al di là della mia romanità, che fa sì che io al campo dei fiori ci sia stato ovviamente centinaia di volte nella mia vita, e insomma tutti i pischelli romani sanno che quello è un luogo di aggregazione proprio tradizionale, vederlo non è la prima volta, perché campo dei fiori ci sono stati una quantità di scontri in questi anni, tifoserie, anche a fondo politico in altre circostanze, insomma è una piazza abbastanza calda da quel punto di vista, perché è un luogo di aggregazione enorme, c'è stato anche del vandalismo, poi tempo fa c'era una brutta moda con i vandali, cioè, quindi ne ha viste di rotte e di crude, però vedere una delle piazze più belle di Roma dietro l'ambasciata francese a Piazza Farnese con la statua di Giordano Bruno saccheggiata e offesa in quel modo mi ha fatto veramente, veramente male. Insulta la civiltà, non c'è dubbio. Adesso ci fermiamo per il traffico, poi ti lascio già un compito per domani, perché c'è un ascoltatore di Genova, si chiama Dani, che scrive: da tifoso biancoverde spero che Pardo possa domani raccontare alla radio le emozioni del Celtic Park di stasera. Vinca il migliore, club Italian Celts, mica male. Quindi immagazzina tutto e domani ci racconti le emozioni del Celtic Park di stasera, dove 21:05. Un po' già posso raccontartele, perché ci sono stato ieri sera, c'ero già stato, ci sono stato anche 20 minuti fa, ero lì, quindi insomma è un luogo magico, però adesso c'è il traffico, quindi ne parliamo dopo. Traffico. È più bello so io, perché so bullo e bello e non truccato. Convocati. Andiamo avanti dopo queste due partite, sarà più facile, ma credo che guardare troppo avanti è un errore. Ovviamente dobbiamo qualcosa ai nostri tifosi, siamo in difetto verso i nostri tifosi e siamo i primi, io e tutti i giocatori, a voler vincere subito domani una partita in casa. C'è solo questo da fare. Se Torino centra la partita sul piano generale, quindi generale significa personalità, tecnica e serenità nel proporre quello che sa fare, credo che nulla ci è precluso. Concentrati su questa partita, sapendo che sarà molto importante e sarà diversa dal campionato, e quindi cerchiamo di passare questo turno, poi vedremo strada facendo. La speranza è quella, come tutte le squadre che iniziano la competizione, era in fondo. Una partita molto difficile contro un avversario di primo livello, sarà necessario avere il massimo entusiasmo ma non sfociare nell'euforia, perché può diventare una partita pericolosa. In rapida successione abbiamo sentito Benitez, Garcia, Ventura, Mancini e Montella, i cinque allenatori italiani impegnati oggi. Pierpardo, abbiamo in linea un signore che quel 12 maggio all'Usniki di Mosca con la maglia del Parma c'era e ha pure segnato. Enrico Chiesa. Buongiorno Enrico. Sono passati un po' di anni, però un buon ricordo. Qualche annetto, adesso a Parma non sanno nemmeno se riescono a organizzare Parma Udinese di domenica, sono rimasti 40. Beh, auguriamoci invece che sia, che possano giocare. C'è il rischio porte chiuse, decideranno più tardi, ma c'è il rischio porte chiuse, perché rimangono 40.000 euro neanche necessari per organizzare quella partita, questo è pazzesco. Pier, vuoi cominciare tu? Sì, no, oltre a ringraziarlo perché mi ha fatto vincere almeno due scudetti a Fantacalcio agli anni 90, è un momento autocelebrativo. No, vorrei che ci ricordasse che cos'è la Coppa UEFA. Mi pare che le squadre italiane ormai l'hanno un po' cominciato a capire quest'anno, no? Ed è quello che tutti ci auguriamo. Però insomma è evidente che la Champions League si è preso un ruolo, è di ipocrita nascondercelo. Però insomma la Coppa è quella, com'è alzarla? Coppa bellissima. Bella, entusiasmante. Beh, se tu ti puoi, come bisogna ricordare che negli anni 90, tra il 96 e il 2002, noi come squadre italiane andavamo forte nelle coppe, nel senso che poi l'ultima Coppa UEFA l'abbiamo vinta noi. Beh, era una Coppa UEFA importante, no? Noi mi ricordo che avevamo giocato con grandi squadre, non c'era il turno eliminatorio, le sei squadre, i gironi, ma c'era subito il turno diretto, perciò era anche un po' più difficile. Sicuramente rispetto alla Champions è un gradino, forse due o tre gradini sotto. Sicuramente negli ultimi anni così le squadre italiane ci hanno pensato un po' meglio, nel senso di cercare di farla nel miglior modo possibile e arrivare fino in fondo. Perché finché non arrivi ottavi, quarti, tutti dicono magari la stanchezza, i giocatori e tutto quanto. Però poi quando arrivi, abbiamo visto l'anno scorso la Juve che è arrivata in semifinale e credo abbia gli è dispiaciuto uscire alle semifinali, perché poi giocava anche la finale in casa. Certo, occasione buttata, ma poi per molte... Bisognerebbe cercare di dare un qualcosa in più, adesso hanno cercato di cambiare, però io credo che sarebbe meglio, forse che un cambiamento totale, non radicale, però sarebbe bene se chi vince la Coppa UEFA va direttamente in Champions. Sarebbe già uno stimolo in più per molte squadre, questo è sicuro. Sì, però... me lo sarà infatti. Già lo è, perché insomma da questa stagione se ne parla, vince, sì. Ma... turno preliminare, quindi comunque in realtà c'è una serie di combinazioni, dipende se la squadra alla quale sei il posto ha vinto o no il titolo nazionale. Comunque voglio dire, per metterci nella testa di Mancini, questo pensiero c'è, cioè Mancini ha detto dal primo giorno che è arrivato all'Inter, ha detto la strada più semplice e la più divertente, la più affascinante per arrivare in Champions League attraverso un'eventuale vittoria in Europa League. Quindi questo sicuramente è un grande stimolo. Questo è un grande stimolo. Poi secondo me c'è anche lo stimolo economico e poi c'è l'amor proprio dei giocatori, c'è il fatto che si giocano le partite eccezionali in degli stadi eccezionali, quello del Celtic è una roba bellissima, con grandi squadre, ma penso a Torino, Atletico Bilbao, che partita è, no? Proprio c'è l'essenza di questo gioco. Tottenham Fiorentina anche, per citare un'altra squadra di Chiesa. Lo stesso Fagliano, al di là dei simpatici mille ubriachi di ieri sera, ma insomma è un club importante, non c'è discussione su questo. Enrico, chi può arrivare in fondo secondo te? Degli italiani? Il turno, forse l'Inter è quella che fuori sulla carta, che poi sai giocare contro il Celtic, è una squadra un po' strana, però credo che abbiano tutte buone possibilità. Sicuramente c'è un po' di equilibrio, sono partite, come avete detto voi, di grande fascino e questo potrebbe essere un stimolo in più per le squadre italiane. Credo che, come è stato anche l'anno scorso, un buon percorso della Juventus, anche quest'anno ci sia qualche squadra italiana che possa arrivare in fondo. Ovviamente il fatto di questa cosa qua, del fatto che si può, che la strada più corta per arrivare in centro si possa essere qualcosa, una motivazione in più per le squadre. Ma quante firmereste? Lo chiedo a tutti e due, 5 squadre, saremmo felici se ne passassero? E ne può passare anche 3 o 4. Sono d'accordo. Speriamo che passano tutti, poi è normale che poi 5 su 5, però a livello europeo adesso mi sembra che come squadre l'Inter e la Fiorentina c'è un test importante contro il Tottenham, però penso che tutte se le possono giocare. Sì, anche non Napoli. C'è una squadra che supera, magari il Torino con l'Atletico Bilbao sotto l'aspetto dell'esperienza può pagare sotto questo aspetto, perché poi subentra anche l'esperienza delle squadre europee, però il Torino con l'entusiasmo, con la voglia di far bene può essere il colpo sorpresa. E altri sotto l'aspetto dell'esperienza sono tutte molto equilibrate per motivi diversi, ma sono tutte molto equilibrate, nel senso che la Fiorentina, per dirti, che ha un'avversaria tostissima, però arriva con una condizione eccezionale, poi comunque è battuta in Europa, ha fatto cose, cioè in Europa ha fatto benissimo dall'inizio, quindi quella che forse è la partita sulla carta più difficile per il livello dell'avversario, secondo me ce la giochiamo veramente a testa alta. La Roma, che teoricamente non dovrebbe avere grandi problemi perché per noi è nettamente più forte del Feyenoord, però arriva in un momento complesso. Difficile. L'Inter è favorita col Celtic, ma l'Inter, lo sappiamo, è sempre un punto interrogativo. Il Torino per me sì, è chiaro che fa figo, il Bilbao ha eliminato il Napoli, però insomma, se guardiamo, il Torino e il Bilbao sono nella stessa condizione di classifica, anzi è ancora meglio il Toro del Bilbao se confrontiamo i due campionati, per cui perché non crederci? Certo, e certo, il Napoli credo che sia favorito, insomma io penso che Napoli e Inter abbiano qualcosa in più e le altre tre secondo me se la giocano tutte e tre, la Roma se la gioca la favorita e le altre due alla pari. Enrico, un'ultima cosa, adesso alleni la primavera alla Sampdoria, la prima cosa volevo chiederti che rapporto hai col presidente, con il press, che abbiamo sentito anche è venuto a trovarti due o tre volte a salutare la squadra e tutto, ha un grande entusiasmo. Beh, quello come lo vedete voi ma è vero? È così? Sì, no, è spontaneo, lui credo che le emozioni che trasmette le sente, le fa vedere, tutto quanto è naturale, cioè questo non ci dobbiamo assolutamente, cioè, quando viene a salutare i ragazzi le battute le fa a modo molto come si può dire, per motivare questi ragazzi e così. È credo così. Che ha questo entusiasmo, queste le esterna giustamente, e perciò non è che ha una doppia faccia, ha una faccia, quella è che nel senso che è venuta a trovarci due o tre volte, è venuta a trovarci in albergo prima di una partita, no ci segue, sa qualche valore hanno sotto i ragazzi giovani di adesso, ecco, e perciò credo che ci crede molto. A proposito dei ragazzi giovani di adesso, le parole di Sacchi come le hai prese, interpretate, lette? Ma no, ognuno c'è, cioè, ognuno pensa che ci siano troppi stranieri nei nostri settori giovanili? Allora, parlo personalmente per quello che noi viviamo, la mia esperienza qua al settore giovanile. Io l'ho detto anche in un'intervista, noi ci abbiamo su 24 giocatori della Rosa, 25 abbiamo 15 16, sì, perché uno forse è 15 giocatori di Genova italiani, abbiamo 10 giocatori che vengono da fuori nel senso che stanno nel convitto, dei quali 5 stranieri. Punto. Quindi. E questa è la nostra situazione. Poi io non posso giudicare le parole di Sacchi, che è una sua opinione, oppure in generale. Noi si lavora così, ci troviamo bene, vi dicendo poi. È normale. Se vogliamo cambiare, possiamo cambiare, sì, mettiamo un limite, se non vogliamo vedere tanti stranieri, però. Il torneo di Viareggio hanno fatto vedere delle statistiche diverse, ecco. Sì, magari nel sì. campionato primavera può aumentare questa cosa qua, però ognuno ha la propria opinione. Io dico questo perché dove lavoriamo, dove nel settore giovane della Sampdoria, i numeri della nostra rosa sono questi, ecco. Sì. Quindi il problema lo vedo più semmai a livello di Serie A. Abbiamo se andiamo a vedere statistiche e i risultati della Serie A, diciamo che il 45% sono italiani, 55% o viceversa, se non mi ricordo, capito. Stranieri, esatto. Ma stranieri sì, in generale, 60, quello c'è da preoccuparsi. 60, Enrico. Quello è preoccupante, soprattutto perché quasi 60%. Ma preoccupante perché i giovani che devono fare un salto dalla primavera alla prima squadra, che è enorme, enorme. Noi non possiamo pensare che è un gradino, non è un gradino tra la Serie B, la Serie A, la C, la Serie B, che è un gradino, può essere, è una rampa di scale. Qua noi parliamo di primavera di 17 anni o 18, 19, che vanno in una prima squadra a affrontare ragazzi adulti. Cioè già pronti, cioè non è facile, è normale che ci possono essere delle cose, noi dobbiamo prepararli anche sotto questo aspetto, questi ragazzi. Questo è benissimo, fondamentale. Grazie Enrico. Grazie, grazie buon a voi, lavoro. Grazie Enrico Chiesa. Ciao. Pia, sentiamo la borsa, poi ascoltatori, 800 24 00 24. Chiesa è un mio mito personale, sì, non volevo dirti questa cosa. Ma è un periodo che segnava, negli anni 90 ha fatto stagioni 20 gol, sì, sì, ce lo ricordiamo bene, ce lo ricordiamo bene, ma poi ha detto una cosa fondamentale, è una cosa che secondo me è fondamentale, cioè l'ultima, non pensate che il salto tra la primavera, il campionato giovanile e il calcio dei grandi sia un gradino, è molto più di un gradino, e no, prepariamo molto, di più, e quel 60, molto di più. Quel 60% di stranieri, di quel 60% i fenomeni quanti sono? 5%? Diciamo, forse. Gli ottimi giocatori quanti sono del 60%? Un 10-15%? 10-15%. Per cui quello è il discorso culturale, ma non lo fai attraverso i divieti e tantomeno attraverso il razzismo. Lo fai attraverso l'investimento sul vivaio per avere dei giocatori in casa che possano usare invece di andare a cercare il colpo ogni volta in giro per il mondo con 40, con rose di 40 giocatori, molti dei quali non sono l'altezza. Borsa, prezioso, dato che tu fai giochi preziosi, se sei il mio amore, ti voglio cantare Coccolino Dudu, Coccolino Dada, e tre gol ti facciamo sempre là. Tutti convocati. Con Pierluigi Pardo da Glasgow andiamo a Firenze da Damiano. Buongiorno. Sì, buonasera dottor Genta. Buonasera, buongiorno, dica. Un ricordo di grande Enrico Chiesa, mi dispiace sia andato via. Lo so. Ce lo ricordiamo molto bene a Firenze. Lo so, ne stavamo ora parlando con Pardo. Certo. Gran giocatore. Dica. A proposito, visto che c'è anche il signor Pardo in collegamento, un piccolo rammarico, sì, che Mediaset praticamente ancora la Fiorentina in chiaro non l'ha mai data. Chiaramente si va a vederla sul premium, però mi sembra che la lascino un po' isolata, via, una squadra come la Fiorentina, insomma, anche nei preliminari l'Inter l'hanno data una volta, il Napoli un paio di volte, il Torino mi sembra circa tre, la Fiorentina nemmeno una volta, e anche questo, e anche stasera partita importante come quella. Paura che Pardo possa far poco, Pier. Io posso fare, sono chiaramente scelte del marketing in relazione agli ascolti o alle strategie. Io quello che posso dire è che Premium oggi ha 5 canali, ha 5 squadre italiane, abbiamo un pre e un post dedicato, abbiamo diretta Premium su tutte le partite, insomma, diciamo la parte pay, quindi la parte a pagamento, che chiaramente insomma è come Sky, no? Dal punto di vista del tipo di prodotto a pagamento, oggi offre in esclusiva assoluta le 5 squadre italiane. Il chiaro chiaramente è una vetrina, ci sono anche valutazioni di ascolti. È evidentissimo che Tottenham-Fiorentina è una partita meravigliosa, anche Celtic-Inter è una partita meravigliosa, non so veramente dirti la scelta perché è stata fatta, insomma. Fra l'altro la Fiorentina doveva essere fatta, ce lo ricordiamo, perché era uscito il calendario contro il PAOK, credo l'ultima partita del girone, però poi era già completamente qualificata e allora è stato fatto il Napoli che si doveva giocare il primo o il secondo posto, altrimenti la Fiorentina l'avrebbe fatta. Però quello che mi sento dire è che veramente non c'è nessuna valutazione che possa in qualche modo attenere alla simpatia o alla simpatia, sono valutazioni di marketing fatte per convincere la gente a abbonarsi, non lo so, oppure per gli ascolti, ecco, però veramente non ci sono altre ragioni. Vi posso dire perché insomma lo sforzo è un bellissimo sforzo facciamo oggi in assoluto per l'Europa League con le 5 squadre italiane in esclusiva, con i 5 canali aperti, ma sarà divertente, secondo me chi ha Premium stasera si diventa molto, ecco, questo non ho proprio nessun dubbio. Nando Chieti, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, io premetto che ho visto la fatidica finale di Lisbona, no? Ero un ragazzino quando nel bar dello Sport hanno dato in visione questa partita, e la cosa che mi meravigliò fu la presenza di alcune persone che al gol del Celtic saltarono per gioire. Allora io, che ero un ragazzino, chiesi a una persona più anziana, disse: ma perché saltano? Anche questi sono juventini. E questa è stata una cosa che è rimasta poi ti rimane nello stomaco, no? Sì, sì. Sono cose che il tifo contro non è, il gufismo non è nato oggi e nemmeno ieri, è nato qualche tempo fa. Nando, io la ringrazio. Adesso, caro Pierpardo, abbiamo un nuovo caso per Federica Sciarelli. Allora, se scompare una persona è preoccupante, ma pensate se ne scompaiono due. Mr. Manenti. He's not here. He's not here today. He was here in the morning, but he's not here. He's not here. This is the. Questa è la sede Mappi Group. Yes, but just he's not here at the moment and he's not available. Thank you. Thank you. Mai sentito parlare della Mappi Group? Cosa fanno? Conosce Manenti, Gian Pietro Manenti, imprenditore italiano, Mappi Group? No. Mai sentito parlare Mappi Group? Ma sentito, ma non so dov'è. Allora una troupe di Sky è andata a cercarlo in Slovenia, Nova Gorica, numero civico 7, e lì però c'era la casupola, una specie di villetta in mezzo ai capannoni. La signora apre la porta, ma no, era qui stamattina, adesso non c'è più, è andato via. Sono scomparsi in due, Manenti e Alborghetti. E sta per scomparire. La cosa grave è anche il Parma. Gene Gnocchi, buongiorno. Ciao Gene, grazie. Buongiorno. Oh, ciao. Gene. Senti, hai ricevuto la convocazione per giocare con l'Udinese? No, però mi ha chiamato Melli, che mi ha detto se ho due o tre palloni per la partita, perché loro li hanno pignorati, però credo che andrò. Comunque io ho sentito Manenti mezz'oretta fa. Sì, che è stato pescato dal collega di Mediaset Raimondi. Guarda, però in realtà io non so, però le cose sono andate, sono molto diverse da quelle che state rappresentando voi. Sì. Dici? Sì, perché allora vi spiego un po' la cosa com'è. Allora, i bonifici sono partiti, ma sono per strada. No, sono partiti. Il problema è che non so per quale ragione sono stati accreditati alle oggettine. Ah. Ecco, quindi esatto, quindi non so per che motivo, perché sono stati deviati. Quindi il presidente del Parma da oggi è Ragionier Spinelli, e quindi le gemelle De Vivo sono le due amministratrici delegate, ecco, al posto di Leonardo. Che non è stato bene ancora, poveretto. Che non è stato ancora bene per una lieve ipertensione, però le cose stanno così, quindi aspettiamo, e quindi appena Spinelli e le De Vivo ci dicono qualcosa, c'è questo nuovo passaggio di proprietà, diciamo così. Ecco. Pardo, speriamo funzioni almeno stavolta. No, speriamo funzioni. Cene, che fra l'altro aspetto a braccia aperte attività, che credo siamo, insomma, una delle prossime puntate, quando vuoi vieni, se ti fa piacere, ovviamente. Ma sì, ma siamo già d'accordo. Siamo già d'accordo. Sì. Ah, perfetto, vedi che so tutto. Dimmi. No, ti volevo dire che da straordinario comico, però vorrei sentire il Gene Gnocchi, tifoso del Parma, e capire se è incazzato in un momento come questo, oppure se con l'ironia si riesce a superare anche no, guarda, io dolore per una perdita, perché... No, io non sono incazzato, sono imbufalito, perché cioè accumulare 197 milioni di debito, che è il debito reale, che è quello, il debito cioè è una cosa che non puoi fare in tre giorni. Quindi io mi domando, dal momento in cui io andavo al Tardini, per dire, un anno e mezzo fa, e già si parlava di difficoltà a pagare gli stipendi, pagavano sempre all'ultimo giorno, e quindi mi domando cosa è stato fatto lì dentro, perché è una squadra che ha tra più di 320-330 giocatori tesserati, ha una società satellite a Nova Gorica, cioè evidentemente c'è qualcosa che non quadra, dai, insomma, siamo gente che ne ha viste di tutti i colori, però una roba del genere, cioè, non si è mai vista, dai. Arriva il primo, cioè Manenti è uno che ha cercato di comprare delle squadre già tre o quattro volte, se parli nell'ambiente passa per un millantatore, un maniaco, cioè uno, un mitomane, cioè, quindi mi sembra una situazione pazzesca, perché non è possibile che si arrivi a questo punto. Quindi io sono incazzato nero, anche perché Parma è una città che avrebbe anche le risorse per, cioè, penso ai grandi industriali, penso a Barilla, penso ai Pizzarotti, hanno le risorse per poter fare qualcosa, però non si muove nessuno, ecco. Sì, Genet, l'anno prossimo... Perché secondo te? Perché evidentemente un debito così comunque spaventa, perché probabilmente se una cosa del genere fosse stata presa prima, discussa prima, invece che mangiarci dentro, perché penso che sia quello, probabilmente qualcuno si sarebbe fatto vivo, ma adesso chi è che può comprare una società che ha un debito del genere? Cioè, solo un demente può prendere, a meno che non ci sia qualcosa dietro di stranissimo, però solo un demente prende una società con 197 milioni di debito quando puoi prenderlo da un fallimento. Certo, la strada sarà quella, Gene. Magari dopo il fallimento, con gli incassi di Sconcerto Rock, l'ultimo spettacolo che stai facendo lo compri tu. Certo. Cordata di Fidenza. No, scusa, la società di Manenti ha 7.500 euro di capitale, non ha fatturato una lira, poi si propone come acquirente del PAM. Io, insomma, due lire ce le ho, ma mi propongo anch'io a questo punto. Fai cordata di Fidenza, Fai certo. Una cordata di Fidenza e recuperi. Ma tanto l'anno prossimo, se lo Tito vuole, arriva al Carpi, magari a Parma, a giocare. Sicuramente. Ah sì, ma in quarta serie, però, in Serie D, cominciano tutte e due dalla Serie D. Lo Tito vuole questo, il Carpi non può fare che... Vabbè, comunque lasciamo stare, perché se parliamo anche dai, di... Dai, Gene, consolati col Milan, dai, consolati col Milan. Sì, certo. Grande annata, Gene Gnocchi. Proprio... Quest'anno sì, quest'anno è proprio fantastico. Ci manca solo un invito a Tiki Tag e poi ho fatto tutto. La tragedia, allora il triplete. La tragedia. Fai il triplete. Grazie, Gene. Il triplete, grazie a voi. Ciao Gene Gnocchi. Convocati. Stefano da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Com'è la situazione in città? Sì, volevo parlare del farmacalcio. Sì, com'è la situazione in città? La situazione in città è stata abbastanza piccante, diciamo. È un peccato, perché non si può arrivare per una partita di calcio a fare queste cose. Questo è sicuro. Stiamo sempre parlando sempre delle stesse cose. Una cosa che mi fa indignare del farmacalcio è che non si può, una società del genere, quando si passano quote e tutto quanto, nessuno sa nulla e poi ce ne accorge sempre dopo. Oppure del presidente in precedenza ad arrivare a accumulare talmente tanti debiti che poi la società diventa un giochino, e non va bene questo. Certo. Cioè, ci deve essere proprio all'inizio un controllo. Sono d'accordo. Cioè... Non è possibile che poi pagano sempre le persone per bene, cioè i tifosi che fanno sacrifici o altri azionisti che sono in aziende e tutto quanto, e nessuno poi alla fine paga. Cioè, no, ma almeno una casa in Slovenia, ma non lo sapevano prima? No, ma al di là di quello, insomma, io credo che ci sia un ente, forse un'entità astratta, Pierluigi, che dovrebbe chiamarsi Lega Calcio, che dovrebbe sapere e conoscere queste situazioni e arginare queste situazioni prima che deflagrino in questa maniera, perché non c'è altra via al fallimento. Esatto. Se una banca va, no, ci mancherebbe, non in fallimento, ma un minimo in sofferenza, arriva Banca Italia e indaga, e alla peggio la commissaria la rimette a posto. Se una società di calcio invece la società di calcio non hanno minimamente controllo, per carità, è molto più grave se sta male una banca, con tutto rispetto per la squadra di calcio, per carità, però voglio dirti che un minimo di controllo dovrebbe essere esercitato, e l'organismo che deve farlo è la Lega, sì. Non ce n'è un altro, insomma. Sul discorso dei tifosi, insomma, da un lato quello che abbiamo visto ieri sera ci fa capire, che ci conferma per l'ennesima volta, che non è che il problema ci sia stato in Italia, anzi. Dall'altro però mi fa pensare sempre che ci sia che l'Italia venga vista da alcuni come un luogo dove è più facile rimanere impuniti per fare certe cose. E questo un po' mi dispiace, no? Cioè, è un discorso che purtroppo abbiamo già fatto, no? Esatto. Cioè, da fare il casino, ti ricordi con la... i tifosi polacchi, per esempio, del Legia quando vennero con la Lazio, insomma. Beh, anche di recente a San Siro con la nazionale croata. Sì, certo, appunto. Quindi, voglio dire, da questo punto di vista, forse dovremmo comunicare una maggiore severità, ecco, per avere qualche casino in meno, visto poi fra l'altro che insomma leggiamo dalle cronache che avremmo cose più importanti a cui destinare le nostre forze dell'ordine in questo momento che ai valorosi tifosi del Feyenoord, ecco. Francesco, provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno, volevo ricollegarmi a quanto detto da Chiesa, sì, relativamente ai giocatori della primavera che devono fare un piano, non un gradino, sì, passando sì, dalla sì, serie sacrosanto, diciamo, dalla primavera in ogni sport. Sarà sacrosanto, però io ieri sera ho visto 3 diciannovenni giocare in Champions League con molto bravura. Non riesco a capire perché in Germania o all'estero un diciannovenne possa partecipare a una partita di Champions League importante e da noi no. Solo questo. Sì, questa è una considerazione interessantissima. Il discorso è che iniziano molto presto a 15-16 anni quelli bravi magari ad allenarsi con i più grandi e certe volte anche a giocare con i più grandi, però il passo è lungo, no, Pierluigi? Sì, anche se poi secondo me i veri fenomeni giocano sempre. Ah. Questo, insomma, Icardi oggi compie 22 anni, no? Sì. Ecco. Pogba anche lui è un 93 ed è da un paio d'anni sulla breccia, insomma secondo me non dobbiamo neanche esagerare. Poi che in Italia ci sia rispetto ad altri paesi una cultura e una pressione da risultato a tutti i costi continua che non ci fa bene perché non ti consente mai di essere paziente, di no, ti accelera tutto e quindi fa sì che si debba andare necessariamente sul sicuro e alla lunga ti impedisce di valorizzare i giovani, questo è vero. E come suggerisce un amico, si potrebbe tornare al discorso delle seconde squadre che in molti altri paesi funzionano alla perfezione, cioè il grande club ha una seconda squadra che gioca, ipotizziamo, in Serie B, strettamente collegata e sinergica, invece di prestare i giocatori in giro e poi magari non li fanno giocare, li fa giocare a quel livello e no, questo senz'altro, ma soprattutto secondo me bisognerebbe cercare di evitare meno sole, meno giocatori, come diciamo noi a Roma, meno giocatori scarsi che arrivano dall'estero e fare degli investimenti invece più di prospettiva sui ragazzi al vivaio. Questo qui, poi le generazioni francamente insomma vanno e vengono, corsi e ricorsi storici. Adesso il Belgio sta vivendo un momento magico, no? L'Italia sicuramente qualche anno fa era messa meglio, però insomma alla fine Verde è un 96 se non sbaglio, Cataldi della Lazio un 94, sì. Cioè secondo me in assoluto non è così, non è che c'è una regola, non è che da noi per forza i giovani, però ci sono troppi stranieri scarsi, appunto, cioè, sì. Sono troppi stranieri dei quali non se ne sente il bisogno. L'altro giorno parlavamo con Condò di quell'epoca d'oro del calcio italiano nella quale per legge c'erano soltanto 3 stranieri, e però quei 3 stranieri, complice il fatto che il calcio italiano in quel momento dominava, erano giocatori che facevano una differenza mostruosa. Oggi i giocatori che fanno la differenza sono pochissimi, sì, e quindi tolgono il posto ai ragazzi del vivaio che crescono. Poi c'è un'altra considerazione sul fatto di Sacchi, che bisogna sempre un po' distinguere i giocatori che non sono eleggibili per la nazionale, cioè certo, che sono da quelli che sono eleggibili per la nazionale, italiani che hanno un'origine, perché chiaramente la società sta diventando sempre di più un melting pot, un luogo di incontro di culture, di storie, e quindi è pieno di italiani che magari non hanno esattamente la pelle bianchissima, ma sono assolutamente al 100% italiani, degni di tutti i diritti, e ci mancherebbe altro. E quelli non sono chiaramente giocatori che appartengono al nostro movimento calcistico. Certo. Quindi, da un certo punto di vista è normale che ci possa essere stata una mescolanza, è fisiologico e secondo me è anche sano, per come la vedo io. Bisogna evitare. No? Successo in Germania è campione del mondo, per non parlare della Francia, eccetera. Pierre, buon lavoro. Dai, mi ricordo, Sì, ciao ragazzi. Chiuderò ora. Buon lavoro al Celtic Park. Mi raccomando, immagazzina emozioni, domani ce le racconti. Va bene, anche stasera. Ciao. Ciao. Ciao Pierluigi Pardo. Allora, io prima di chiudere vi voglio far sentire, a proposito di questo discorso, cosa ha detto ieri Sacchi a Mediaset e cosa ha risposto poi Carlo Ancelotti. Sono stupito, devo dire, ma non è anche troppo, perché so benissimo che in questo mondo il populismo è all'ordine del giorno, come anche il cercare di non avere una memoria storica. Io sono 42 anni che sono nel calcio e in 42 anni non mi era mai stato detto che ero un razzista. Non credo di esserlo diventato adesso a 68 anni. Vi saluto Arrigo, molti nemici, molto onore, ti abbraccio. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Dunque torniamo, quelle parole di Ancelotti, date stato di stima, molti nemici, molto onore, hanno scatenato una baraonda, un putiferio soprattutto sui social network, perché frase di connotazione fascista è un modo di dire, dovuto intervenire Ancelotti, secondo me polemica pretestuosa, è intervenuto Ancelotti, ha detto: ho sempre attribuito quelle parole a Giulio Cesare, ci tengo a precisare che non condivido assolutamente certi valori. 800 24 00 24, ma chi passa il turno? Quante ne passano di ste 5? Mauro da Brescia, buongiorno. Buongiorno Genta e buongiorno a Pardo. Pardo, il Gepi. Non avrei mai immaginato da interista di intervenire per difendere Ancelotti e Arrigo, che vedo come il fumo negli occhi dall'altra parte della barricata. Sì, sì. Ma penso che si debba un attimino valutare le parole, estrarre il senso di ciò che Sacchi voleva dire con quel troppi stranieri, in quanto secondo me è un po' come lei pensa, magari gioca comunque a fantacalcio, si dà la possibilità di fare mille chiamate, chiami tutti, cani e porci, e poi buttando la rete a strascico qualcuno trovi, come piace fare al mio amico Belli al fantacalcio, che chiama la Yeye Prado di turno e poi non gioca, gli dai tre possibilità, sai che uno te la giochi per cercare il fenomeno e se poi ti va bene tutti contenti, però appunto sì, no, ma poi si può discutere sul troppi stranieri, a parte il fatto che è una cosa che va... Mauro da Brescia è caduto? Caduta la linea? Vabbè, comunque abbiamo capito, a parte il fatto che è una cosa che va regolamentata, cioè non è che possiamo fidarci di vari gentleman agreements, poi i gentleman mi spiegate voi dove sono, valgono le leggi di mercato, questo è un discorso che possiamo fare, possiamo blatterarci sopra a lungo. Quella frase scappata a Sacchi per distrazione, disattenzione, non, certamente non credo per convinzione, però se si parla pubblicamente bisogna stare attenti a quello che si dice dentro a un microfono, perché poi sappiamo che è così e che alla fine verranno a renderti conto di tutto ciò. Oh, Leo Turrini, buongiorno. Buongiorno, io volevo subito dare uno scoop al maestro Genta. Cioè? Visto che stavo seguendo la coda di questo dibattito, allora una notizia fresca, molto importante: Arrigo Sacchi alla Ferrari. A fare. E tu dirai, perché? Lo spieghiamo subito, ma prendete tutta la Formula 1, sono tutti bianchissimi, lavati con perlata. Tranne il campione del mondo. C'è solo un'eccezione, ma io spero che Arrigo Sacchi se ne farà ragione, che onestamente lui seguito nel campione del mondo in carica è nero come la pece, è nero come il carbone, però insomma è l'unico, se Sacchi viene con me, con te a Barcellona, dove adesso stanno girando le macchine per il nuovo test precampionato, facciamo su e giù, come si dice, per il paddock, ma lì non si trova uno tipo pane neanche a pagarlo, ma nessuno, tutti bianchissimi. Quindi toglietevi il pensiero come del calcio e mandate Enrico Sacchi in Formula 1 alla Ferrari naturalmente, così non fa neanche tanta strada. No, certo. Tu sai che il cavallino rampante, il simbolo, viene appunto dalle terre di Romagna, perché fu la mamma dell'aviatore Baracca a regalarlo a Enzo Ferrari, eccetera eccetera. Uh-huh. Quindi come vedi ti ho dato subito una news che neanche Marisoni a Focus Economia, esatto, adesso gliela giriamo. Sacchi arriva alla Ferrari, alla Ferrari. Senti, ma invece il campione del mondo, quello abbronzato, sì, il Colored, si è ammalato stamattina. Io te l'avevo già detto, se ti ricordi, quando lui lascia, che la lascia periodicamente, viene lasciato, no? Questa Nicoletta Strambelli, Schweitzinger, come si chiama, questa sua fidanzata storica, lui subito ha delle reazioni, va un po' in banana, no? Allora, stamattina era a Barcellona, doveva provare la Mercedes, dove grande attesa, perché la Mercedes al primo test era nascosta e così via. Gli è venuta la ferra. Ha fatto una manciata di giri e poi dopo ha alzato bandiera bianca, pare per un'influenza, un attacco febbrile. Poveretto, voi vuoi farlo correre anche pericoloso, vuoi farlo viaggiare con un corso brone. Queste sono cose, poi sai, io credo sinceramente che questi qui della Mercedes nemmeno abbiano bisogno di questi test per campionato. Talmente, sono talmente forti che potrebbero andare in tournée come fanno le squadre ma di calcio. Sì, potrebbero fare come gli Harlem Globetrotter nel basket una volta, presentarsi direttamente a Melbourne e accendere il motore là, hai capito? Invece divertete questa cosa dei giapponesi, i promessi sposi di Alonso, la Honda. Sì. Che anche loro sono circondati da questa enorme curiosità, stamattina hanno bruciato una guarnizione, banzai, samurai, kamikaze, non si capisce bene, fatto sta che per due giorni non girerà. Io mi immagino Alonso che se n'è andato dalla Ferrari, no? Dicendo che insomma in Italia i soliti per di giorno fannulloni, gente non in grado di sviluppare idee geniali, eccetera. Ha scelto l'estremo oriente, o dico, finora in due test precampionato la McLaren non è riuscita ad andare da Pero a Cormano, anzi, visto c'è il traffico, me l'ero dimenticato. Se vedete una coda sulla Pero Cormano, è perché la McLaren Honda di Fernando Alonso si è attraversata per un problema, una guarnizione. Quindi fatevene una ragione, aspettate l'inaugurazione di Expo, che è qui che arrivo, e probabilmente vi rimetterete in moto. E vi dovesse mai capitare di notare un vigile urbano nero, non ditelo ad Arrigo Sacco, perché poi qui dopo non si sa come va a finire, hai capito? Perché queste cose sono veramente appassionanti, caro gente. Senti, ma Button 21 giri li ha fatti, 1,28, sì, 182, poi la guarnizione, cosa vuoi fare? I giapponesi hanno già detto che anche domani, causa guarnizione che ci sarebbe stato Alonso, sono fermi sulla Pero Cormano, quindi tutto rimandato per quanto riguarda la McLaren Honda al sabato. Nel frattempo, tra una disattenzione e l'altra, abbiamo questo qui che piacerebbe moltissimo a Sacchi, perché è bianchissimo, il santo bevitore, bianco come la vodka, il biondino, Kimi Raikkonen, che per ora, adesso mentre sto parlando con te, ha ancora il miglior tempo di giornata. Insomma, adesso questa cosa è un po' così, no? Illusore, tu mi insegni, caro gente, no? tutta pia illusione, te, no? Sì. Calcio d'agosto, l'Avellino campione d'agosto, quando batteva 17-1 da Puteolana, più o meno, noi della Ferrari siamo messi così. Insomma, tu dici, non ci credete. Tu e Pardo come state? Tutto bene? Molto bene, sì. Pardo è in Scozia, stasera racconta la tua Inter contro i Celtic di Glasgow, una partita che... Le cornamuse, ho capito. E pinte di birra. Senti, non male, anche la Sauber mi pare, no? Allora, questa è una cosa secondo me vagamente misteriosa, nel senso che tu sai che la Sauber monta la Power Unit della Ferrari, no? E nella passata stagione, complici gli enormi problemi del turbo di Maranello, la Sauber per la prima volta in 20 anni ha fatto 0 punti, cioè proprio una cosa senza precedenti in negativo. In questi primi test stanno andando decorosamente anche loro. Uno qui potrebbe dedurre, senza scomodare notito, absit ignoria verbis, semen in anno licet in sanire, tutte queste cose, se vuoi altre citazioni in latino chiedi che sono pronto. Cioè, senza scomodare notito, uno potrebbe anche pensare che allora forse è vero che il turbo più libero della Ferrari, montati anche dalla Sauber, ha fatto un salto in avanti consistente rispetto ma è sempre ai campionato d'agosto, ma è sempre campionato d'agosto, è sempre campionato sotto l'ombrellone. Sì, poi volevo dire una cosa comunque che la devo dire, perché so che tu gente hai preso le posizioni su questo meritorie. Io ti parlo Maranello, provincia di Modena, anche Carpi in provincia di Modena. Allora voglio dire a Lotito che il Carpi è la nostra Ferrari calcistica. Quindi voglio dire, ma perché si viene a canire contro questa realtà emergente, no? Il bello dell'Emilia Sana, anzi io l'ho già detto a tutti i convocati, è la Ferrari che deve prendere esempio dal Carpi, certo, per tornare competitiva, per essere spettacolare, e salta fuori questo qui, hai capito, Semelinano lì c'è di salire, che dice no, ma come il Carpi in Serie A? Insomma, adesso con tutto il rispetto, no? Avevo appena finito di asserire che il Carpi è il modello di Marchionne. Tra parentesi, voi sapete questa storia, no? Che a Montezemolo hanno ritirato la multipla metano, Sì, vabbè, no, perché Marchionne si è molto irritato. Si è molto irritato. Quando Malagò ha detto Luca Cordero di Montezemolo, l'italiano più famoso nel mondo, per questo motivo l'abbiamo designato alla presidenza del comitato per la candidatura di Roma 2024, Marchionne, che credeva di essere lui l'italiano più famoso nel mondo eccetera, si è veramente arrabbiato e ha fatto restituire l'auto di rappresentanza dell'avvocato Montezemolo, che non ha più questa multipla a metano, e pare sia stato visto aggirarsi su una Dacia. Una Dacia Duster, che è quella che, ve lo dico, è ferma, ecco, scusate ancora per il traffico. Se siete sulla Salerno-Reggio Calabria, la Dacia che è ferma, che sta come al solito procurando un ingorgo, è dell'avvocato. È quella dell'avvocato Montezemolo, che è andato a recuperare i bronzi di Riace che devono fare i testimoni per la candidatura di Roma 2024, che nessuno sa dove sono finiti questi bronzi di Riace. E che non piacevano ad Arrigo Sacchi perché non erano bianchi. Esattamente. Però, professore, anche al povero Carletto, che fanno un mazzo così, perché ha detto molti nemici, molto onore. Poi oggi ha detto: ma pensavo fosse di Giulio Cesare quella frase lì. Ma chi è questo, scusa, che hai evocato? Ancelotti. Ma sì, vabbè, ma sai, Ancelotti è anche lui, cosa vuole? Questi sono tutti ragazzi che sono cresciuti pensando al pallone. Noi non ci rendiamo conto, tranne Lotito, che veramente sa di storia, no? Cioè, voglio dire, Lotito sta all'impero romano come Romolo Augusto lo stava ad Augusto, no? Questa dà anche l'idea della decadenza. Ma gli Ancelotti, Sacchi, ma è tutta brava gente, ma non è che abbiano letto più di un Bignami, hai capito? Uno dice molti nemici, molto onore, non giocava, si allenava nelle giovanili del Parma, vuoi che sappia che era il capoccione di Predappio, che tra parentesi poi, attenzione caro gente, anche questo te la devo dire, sì. Mussolini veniva dalla Romagna ed era pelato, Sacchi viene dalla Romagna ed è pelato, italiani, tutte le volte che un pelato si avvicina alle sorti del paese dalla Romagna, diffidate, siate diffidenti, perché c'è sempre il rischio che finisca a schifino, quindi ricordatevi, pelati dalla Romagna, diffidare assolutamente. Però se vi porterò Sacchi alla Ferrari e lì tutti bianchi, bianchissimi, tutti ciao. Contenti. Ciao tutti. Leo. Grazie, è stato meraviglioso, come sempre. Leo Turrini, grazie davvero. Ciao. Applausi a cielo aperto, oggi lezione anche di storia e di cultura del professor Turrini. Io voglio tornare invece alla storia, quella calcistica, per farvi sentire un brano di un'intervista che Dario Ricci ha realizzato con Sandro Mazzola proprio su quella famosa notte con i Celtic Glasgow. Poi l'integrale la trovate in... ve lo dico dopo. Noi eravamo convinti che avremmo vinto, entrammo in campo con questa convinzione e fu un gravissimo errore, perché non avevamo considerato il valore degli avversari e il fatto che noi venivamo da da campionati lunghi, estenuanti, coppe, eccetera, e quindi eravamo un po' alla frutta. Scene di una Coppa Campioni d'altri tempi, signor Mazzola, una finale che a Lisbona quel giorno si giocò addirittura di pomeriggio. Beh, fu anche quello un problema per noi, perché eravamo abituati a giocare di sera le partite e quindi quel caldo ci diede l'ultima mazzata. E poi io mi ricordo che noi si fece il riscaldamento prima della partita e da una parte del campo e dall'altra lo facevano loro, e uscendo li guardavamo e facevano il riscaldamento con i giornalisti, con dell'altra gente in borghese, che tutti giocavano, e noi tra di noi ci guardammo e diciamo: ma come si fa a perdere con questi qui, è facile, errore madornale. E questa volta tra Celtic e Inter come andrà a finire? In queste partite il loro carattere può diventare importante. Chiaro che secondo me l'Inter è favorita, delle qualità che loro non hanno, Mancini sta facendo un lavoro eccezionale, però bisogna andare in campo convinti che sarà dura. Questa era Sandro Mazzola al microfono di Dario Ricci. Trovate tutta l'intervista domenica alle 16.30 in Olimpia, sempre a cura di Dario Ricci. E già che ci sono, vi consiglio anche questa lettura dell'amico Dario Ricci, perché esce oggi La migliore gioventù, vita, trincee e morte degli sportivi italiani nella grande guerra, cioè la storia di 12 campioni assoluti italiani che hanno fatto la grande guerra. Andrea da Trieste, buongiorno. Ciao Carlo. Ciao. Dimmi. Io volevo parlare un attimo di marketing, o meglio di come è stato promosso male la Final Eight di Coppa Italia di pallacanestro. Il sito internet che è uscito oggi è assolutamente inservibile, non c'è collegamento social, non c'è il palinsesto televisivo, non ci sono i roster delle squadre. Mi domando, ma è possibile che il basket italiano, la Lega Basket, si continui a fare così male? Già si gioca ad Esio, che è un posto difficilmente raggiungibile, non c'è parcheggio. Cosa si può fare per migliorare? Cosa si può fare per migliorare? Bisognerebbe chiedere a loro, caro Andrea, perché quanto tu dici è vero, la comunicazione di questa Coppa Italia a livello di Lega non è stata al momento gestita benissimo. Si comincia domani alle 13, gioca Venezia contro Brindisi, 4 partite, il programma è quello consueto, formula che a me piace tantissimo, però prendiamo per buone queste considerazioni, le gireremo alla Lega e sentiremo se avranno tempo e voglia di rispondere. Saluto e ringrazio Fulvio Bubu Balbusa, buongiorno, ciao Bubu. Buongiorno a tutti. Che sentirete in questi giorni ai microfoni di Eurosport commentare i campionati del mondo di sci stretto, sci nordico, cosa? Specialità, esatto. In quelli dello sci largo siamo andati malissimo, che peggio non si poteva. Questa però normalmente è, e tu insegni, come insegna Marco Albarello, che sarà tuo compagno di telecronaca, io credo, in alcune occasioni, questa normalmente è il nostro territorio di caccia. Sarà così anche stavolta? Ma bisogna dire che abbiamo avuto tanta sfortuna nello sci alpino, non portando a casa nessuna medaglia. Essendo lo sci di fondo, naturalmente le aspettative non sono così rosee, però qualcosa può arrivare. Abbiamo uno su tutti, quello che è un Federico Pellegrino, che sarà in gara tra poco. Stiamo vivendo adesso in questi istanti proprio quelle che sono le fasi finali della gara femminile, poi staccheremo naturalmente andremo sulla gara maschile, dove avremo appunto questo Federico Pellegrino che ha vinto quest'anno gare di Coppa del Mondo. Di conseguenza ci aspettiamo veramente tanto, un 16° posto in qualifica per Federico che ci fa veramente così sognare. Speriamo che sia la giornata giusta. Abbiamo qualche altra carta da giocarci? Bisogna dire anche che in campo femminile abbiamo Francesca Bodin, è una giovanissima che con il 16° tempo in qualifica può fare bene, è una giovane senza assolutamente nessun tipo di tensione che la riguarda, nel senso che lei è arrivata a un mondiale vincendo un campionato del mondo Under 23, sì. Esattamente, e di conseguenza lei partirà con la testa abbastanza libera, e questa potrebbe essere veramente la carta vincente per un giovane che arriva a un mondiale è vero. Quindi Pellegrino tra poco e poi Bauden, stiamo a vedere, a 21 anni, campionessa del mondo Under 23, però insomma testa libera, si va leggeri, però magari qualcosa si può sperare, vediamo come va la gara. Beh, giustamente bisogna sempre sperare, bisogna guardare sempre quelle che sono le gare del mondiale. Il mondiale è una gara a sé, una gara atipica, perché bisogna dire che subentrano anche nei grandi campioni quella che è una tensione che magari durante la Coppa del Mondo non ti assale, mentre in una gara secca dei mondiali ti può veramente mettere alla prova, infatti. Grazie Bubu, buon lavoro. Grazie a voi. Ti ascoltiamo su Eurosport. Antonio Siracusa, mi spiace, non riesco a a parlarci perché devo chiudere il programma. Se vuole, domani, già prenotato. Grazie a Giorgio De Luca, il nostro autore, a Gianmarco Ferronato in regia, Daniele Bonamici in redazione, domani alle 2, tutti convocati. Presidente, noi siamo arrivati purtroppo alla fine. Io, insomma, le faccio una proposta: ci venga a trovare più spesso, perché insomma, devo dire, è volata questa trasmissione. In bocca al lupo per la sua Sampdoria che sta facendo davvero. Me ne posso andare? È finita, sì, presidente. Se vuole rimanere ancora un po', però ci saluti accidentalmente al telefono. No, non ne la faccio più, già caldo.